mia salma, ma non le mie idee. Puoi zittire le mie labbra, ma non le mie idee. Puoi tagliarmi tutti gli arti, ma non le mie idee. Posso anche morire, ma resta ancora le mie idee. Puoi bruciare la mia salma, ma non le mie idee. Puoi zittire le mie labbra, ma non le mie idee. Puoi tagliarmi tutti gli arti, ma non le mie idee. Posso anche morire, ma resta ancora le mie idee. Resta ancora, resta ancora. Perennemente, in lacrime col salvagente, prima che si affoghi in queste bocche di serpente. Un dente affonda sempre, sulla pelle arriva al ventre. Cerco antidoto potente a sto veleno ricorrente. In preda al panico, stabile navigo, mare lavico. Non c'è faro valido che illumini il mio valico. Vale che io vago senza armi e tu sei carico. Mi punti alla tempia con armi, sempre a grosso calibro e sparami. Resteranno pare tra gli anni. Impari che ogni dia non muore, fondamenta stabili, fondamenta alibi, affrontando i miei rammarichi. Ma il peso non lo immagini, ho solo pensieri carichi. E lascio che si prenda lo spazio che c'è, perché il caos non lo sistema e non mi basta un perché. Dimmi cos'è, sta smania del controllo, è tutto finto e crolla. Follo fogli tra foglie di folle, prova autocontrollo. Puoi bruciare la mia salma, ma non le mie idee. Puoi zittire le mie labbra, ma non le mie idee. Puoi tagliarmi tutti gli arti, ma non le mie idee. Posso anche morire, ma resta ancora le mie idee. Puoi bruciare la mia salma, ma non le mie idee. Puoi zittire le mie labbra, ma non le mie idee. Puoi tagliarmi tutti gli arti, ma non le mie idee. Posso anche morire, ma resta ancora le mie idee. Resta ancora, resta ancora. Guardami in viso e poi cercami dentro. Mi hai costretta a mettere una maschera e sto sorridendo. Ma se ascolti il battito del cuore, sentirai che fuori arriva solo un tonfo sghembo perso tra il rumore che c'è attorno a un mondo stronzo che ci fa da sfondo. Ma non mi ci inoltre, in fondo sogni ancora, vinca il bene un giorno. È facile sputare sulla merda in terra intorno e farla culo aperto in strada e dopo dire tutto sporco. Voi tutti quanti, predicanti falsi che parlate dei fatti con frasi fatte e sentite dagli altri. Le vesti vergini e il profumo sugli arti non nascondono il sangue che è stato sparso per saziarvi. Ma tanto alla fine siamo tutti in colpa. La verità è nascosta e qua nessuno l'ha rincorsa. E tu ascolta, è la volta che a qualcuno ancora importa. E lotta per le idee, stravolge tutto e il mondo esorta. Perché non muori? Sotto questa maschera non c'è solo carne. Sotto questa maschera c'è un'idea, credi? E le idee sono a prova di proiettile. Puoi bruciare la mia salma, ma non le mie idee. Puoi zittire le mie labbra, ma non le mie idee. Puoi tagliarmi tutti gli arti, ma non le mie idee. Posso anche morire, ma resta ancora le mie idee. Puoi bruciare la mia salma, ma non le mie idee. Puoi zittire le mie labbra, ma non le mie idee. Puoi tagliarmi tutti gli arti, ma non le mie idee. Posso anche morire, ma resta ancora le mie idee. Restan qua, restan qua.